Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo, per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo, per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e soprattutto buon Natale. Anche quest'anno siamo davvero felici di essere al vostro fianco in questa giornata così speciale. Naturalmente al mio fianco, non addobbato ma naturma, lo prendiamo così com'è, Alberto Pellai, il mio coinquilino di questa casa. Ciao Nicoletta, buon Natale a tutti. E questa sarà davvero un Natale un po' speciale, Alberto. Sì, sedetevi sul vostro divano, prendete un album di fotografie dove avete proprio le immagini delle generazioni che vi hanno preceduto e di voi bambini, perché sfoglieremo insieme un magnifico album di ricordi, torneremo alle radici, torneremo alle immagini della nostra infanzia con un ospite molto molto speciale. Sì, infatti ci accompagnerà un amico che è davvero pieno di ricordi, che ha appena trasformato il suo album di fotografie, quello che Alberto vi invitava proprio a prendere, l'album delle fotografie dell'infanzia. Lui l'ha trasformato in musica, una musica direi dolce, profonda, intensa, che racchiude tutto il sapore della vita, un sapore che gusteremo insieme oggi per tutta la prossima ora. E allora buongiorno e buon Natale a Zucchero. Buongiorno, buon Natale a tutti. Naturalmente io e Alberto siamo molto emozionati. Sì, credo che abbiamo proprio con noi l'artista per eccellenza della musica italiana, lo consideriamo un grande privilegio, e credo che sia un grande privilegio per i nostri ascoltatori sentirsi raccontare da Zucchero oggi un album che io personalmente trovo di una bellezza struggente. Allora Zucchero, oggi sfogli con noi l'album della tua infanzia che tu hai trasformato in una bellissima collezione di canzoni dal titolo misterioso, affascinante al tempo stesso, Chocabec. Sì. E io so che ha una storia davvero particolare, proprio una storia che lega un padre a suo figlio, ancora bambino. Ce la racconti? Ma in questa parola, che è della bassa emiliana, che dicevano i vecchi, probabilmente i giovani adesso non lo dicono più, Chocabec vuol dire il becco che fa rumore, Chocca rumore, il becco. Sì, il becco. Il becco. Era un modo per dire che non c'era niente in mezzo, quindi non c'è companatico, non c'è niente da mangiare. E io l'ho trovato molto tenera questa parola, questo ricordo di mio padre che di domenica, quando a volte c'era il dolce, a volte non c'era, perché eravamo mezzadri, quindi non c'erano molti soldi. E per non, è tenero il fatto che per non dirmi che non c'era niente, mi diceva: porta pazienza, adesso vedrai che arrivano dei Chocabec. E io per un'ora, due, insomma, mi immaginavo chissà quale, un dolce di cioccolata, perché ho dei cioccolatoni che ancora sto aspettando perché non sono mai arrivati. Però allora magari ci rimaneva un po' male. Pensato adesso invece la trovo molto tenera, no? Questo fatto, sì, di non essere così crudo, immediatamente crudo, del tipo non c'è niente da mangiare, oppure il dolce oggi non c'è. Questa delicatezza. Delicatezza di farmi sognare, sperare in qualcosa, è un po' il filo conduttore di tutto l'album. C'è appunto mio padre che mi dice così, c'è mia nonna che mi chiama Speaking Frame Boy, che boy l'ho aggiunto io per americanizzarlo, ma Speaking Frame, anche quella un'altra parola dialettale che vuol dire ragazzino, sì, no, un po' furbino, selvatico, carino, ma tutto solo, insomma, quando mi voleva riprendere per qualcosa che dovevo fare o non ho fatto, perché oppure, dovevi essere una bella lenza, non c'era mai la durezza di un rimprovero duro e molto molto drastico. Era tutto stai attento Speaking Frame, era tutto così dolce, così morbido e nello stesso tempo caldo, ecco, in fondo così musicale, perché queste parole, sì, è vero, tra l'altro potrebbero essere inglesi, anglosassoni, insomma, il suono di Chocabec, di Speaking Frame, Sono perfetti, sono da zucchero. Allora io direi che cominciamo ad ascoltare la magia dei ricordi legata al mondo di questo nuovo CD di Zucchero. Voi ascoltate con attenzione, una raccomandazione inutile ma devo farvela, perché ascoltate con attenzione tutti i brani che vi manderemo in onda. Questo è un bellissimo regalo di Natale. E alla fine della trasmissione scriveteci quale vi è piaciuto di più, quale ha acceso in voi più di tutti gli altri la magia del Natale. Mandateci le vostre mail all'indirizzo esserebenessere@radio24.it. Noi faremo avere a Zucchero tutte le vostre mail e così gli intaseremo la posta ulteriormente, se questo è possibile, e uno di voi, quello che ci ha scritto la mail che ci avrà colpito di più, riceverà a casa, grazie alla collaborazione con IBS, una copia di Chocabake, il nuovo CD del nostro ospite di Natale. E allora direi che è venuto tempo di ascoltare la canzone che dà il titolo a tutto l'album. Noi faremo l'amore, tre nel cielo e due nel sole. Noi faremo l'amore dentro il mare, dentro il pane. Nella bocca e negli occhi, far l'amore nelle mani. E nei baci e nei cuori, fiori a far così. Devo dire, cari amici, che ascoltare le canzoni di Zucchero con Zucchero a fianco ha tutto un altro significato, un'altra emozione, Alberto. Sì, e tra l'altro uno se le gode ancora di più. Certo. Ecco. E tra l'altro in questa canzone c'è un coro autorevolissimo, c'è la voce di Brian Wilson. Sì, sì, è un... Brian è una leggenda, è stato il leader dei Beach Boys... L'unico gruppo di cui i Beatles avessero veramente, come dire, sentissero come antagonisti, no? Erano americani, californiani. Lui poi è stato, diciamo, quello che ha non inventato, ma insomma è stato un grande frequentatore della psichedelia. E adesso è un signore di 70 anni che ancora è nel suo mondo, vive nel suo mondo, però ha, come avrai sentito, una voce, un modo di armonizzare, di arrangiare le voci proprio geniale. E in questo lo è ancora. Noi l'abbiamo incontrato in studio a Los Angeles, nella porta accanto, nello studio B, noi eravamo in quello A, e grazie a Don Woos, che è il produttore, uno dei produttori di Chocabake, che ha lavorato con lui, l'ha invitato a sentire il brano e lui si è innamorato della canzone e ha messo sulla sua voce. Magnifico. Vedi, degli incontri. Eh? Sì, gli incontri, questo è veramente casuale perché io non l'avevo mai conosciuto prima e non sapevo certamente che fosse lì nello stesso studio. Eppure vi siete subito trovati. Questa casa non è un albergo per farci comodi poi. Abbiamo fatto veloce veloce perché non vogliamo perderci un attimo di Zucchero, che qui in studio con noi a trascorrere il Natale con Questa casa non è un albergo. Alberto, facciamo un tuffo nei ricordi. Il sì. Natale è anche questo, è una festa dove è bello ricordare, no? Il passato e godersi anche il presente. Tante volte noi non ce ne rendiamo conto. Ma, E questo ponte tra passato e presente è un po' il senso e il significato di Chocapic di Zucchero. È una sorta di... si rivive una giornata dal mattino alla sera, si entra nelle emozioni del risveglio e poi si sta tutto un giorno in questa vita di provincia. Tra l'altro Zucchero è andato a Brescello, che era famoso come il paese di Don Camillo e Peppone, ma è diventato il paese in cui Zucchero ha lanciato il suo nuovo album. E c'è una canzone che vogliamo farti raccontare, perché questa il testo l'hai scritto insieme a Francesco Guccini, Un soffio caldo, è proprio l'alba che arriva in questa potremmo giornata. Potremmo dire di una canzone tutta emiliana? Ma sì, beh, in quel senso sì, tra la Via Emilia e l'Ues, come diceva il buon Francesco. Ma beh, intanto hai citato Brescello, voglio ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare il sindaco e gli assessori che ci hanno praticamente ospitato per il lancio di Chocapic, e hanno trasformato il paese di Brescello in festa per noi, quindi con le bancarelle, con le giostre, insomma è stato un paese in festa che si è unito ai giornalisti stranieri, alle televisioni per un fare un evento. Esatto, e quindi sono stati veramente carini. Io ci andavo a fare il bagno lì vicino, nel Po, con mio padre, soprattutto a Boretto, che è lì vicino, con mio padre, con la Vespa, mi portava d'estate a fare il bagno nel Po quando ancora... Si poteva fare il bagno. Mentre parlando di Soffio Caldo è la prima musica che ho scritto di questo brano, di questo album, e da Los Angeles mi è venuto in mente che forse meglio di Guccini, col quale siamo amici da tanto tempo, ma non mi ero mai attentato, così si dice dalle nostre parti, di chiedergli di fare un testo per non metterlo in imbarazzo, no? Quando sei troppo amico di una persona... Dopo diventi, cioè, capisci? Diventa imbarazzante, in più. No? Certo. Allora, però, questa volta ho detto: ma qui, secondo me, per raccontare questa domenica, questo giorno di domenica dall'alba al tramonto, secondo me bisogna iniziare con un brano descrittivo padano, insomma, o del paesino. È meglio di Guccini, chi può farlo, insomma, ecco, per cui gliel'ho chiesto e lui: sì, mandalo, però Bacco ci provo, ma scherzi, ci provo, però non ti prometto niente, se viene bene, se non viene, insomma, hai capito, io ho un po' ci prendiamo in giro qualche volta. E ci ha messo, sono tornato da Los Angeles dopo un mese, aveva fatto solo 4 righe, perché lui ha dei tempi biblici, ma è forte per quello, è un vecchio saggio. L'alba è granai, filtra di qua dal monte, piano si accende, striscia e dà vita al cielo, scende, colora, vivida il fiume e il ponte. Oh, è tempo per noi di andare via. Un respiro d'aria nuova, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia si innova, un soffio caldo. Un sogno caldo che va. Sogni che a volte si infrangono al mattino, spengono l'alba, ci spengono opa. Ma quanti cani mordono il nostro cammino. Oh, ma i sogni, sai, non dormono mai. Zucchero, sentendo Soffio Caldo, ma tutto il CD, emerge chiaramente questo, affiorano i tuoi ricordi e tu hai ripreso in mano le foto vere di te bambino per compiere questo viaggio della memoria e nella memoria, o sei uno che le foto, come si dice, le conserva dentro, nel cuore, le tue immagini emotive direttamente dentro di te, a cui attingi magari con occhi diversi, sì, proprio in base, no, al... ci sono foto che ovviamente porti dentro e quelle non hai bisogno di vederle o di rivederle. Ti parlano? Sì, mi parlano. C'è per esempio quella che è nel libretto di ciò che becco mia nonna alla fine, quella ce l'ho sempre con me. Ci sono altre invece che ho trovato nei cassetti, che trovai quando insomma i miei scomparvero, perché uno dopo l'altro se ne andarono, nel cassetto c'era mio fratello. E sono delle cose stupende, perché per esempio io, mio padre, non mi ricordo averlo mai visto così. Io direi, se Alberto sei d'accordo, da Soffio Caldo, che siamo entrati nella dimensione di una giornata di festa, vorrei saltare al tuo brano preferito. L'hai scelto e mi hai detto assolutamente quello, Nico, dobbiamo mandarlo. Allora, naturalmente Natale io ti accontento, ti accontentiamo e poi certo, perché sulle tue scelte io non discuto mai. Avevamo infatti chiuso la scaletta, ma poi io, che in questi giorni ho ascoltato e riascoltato Gioca Becco, ho detto no, questo brano vogliamo farlo ascoltare anche a chi è con noi oggi. Il mio preferito è Soldati nella mia città, non so dirti esattamente che cosa mi ha preso, ma mi ha coinvolto in toto, sì. L'ho trovato un brano pieno di luce, un brano dove la musica, la voce, quello che succede proprio nello sviluppo dell'armonia della canzone è talmente avvolgente e c'è dentro un messaggio così forte di speranza, sì, che ti arriva attraverso le note. Immaginare che i soldati che vanno via vuol dire che è finito qualcosa di brutto, no? È un po' come io spero che vada il mondo, insomma, che vadano, o che vadano i paesi che vedano andare via i carri armati, andare via i soldati dalle loro città, paesi che sono ancora in guerra. E quindi, come vedi, da un ricordo così lontano, diciamo, è molto attuale invece questa canzone. C'è una luce, certa luce, che da sempre splende in me. Lascio tracce sulla neve per tornare fino a te. Stanno andando via tutti i soldati dalla mia città. E verranno giorni di sole nella pioggia che va, come bambini aggrappati alle spose torneremo, ragazzi d'estate, oh via. C'è un bel fuoco nel mattino, dalla nebbia filtra già. Siamo pane, pane e vino, la paura passerà. Stanno andando via tutti i soldati dalla mia città. È vero, Alberto, è una canzone che commuove. Io sono molto commossa e direi che entra proprio anche in questo spirito del Natale, no? Nel guardare al futuro con maggiore speranza, perché sto provando qualcosa di molto bello rispetto al Natale, forse invecchiando. Gli anni passati, cioè qualche anno fa, il Natale era piuttosto, sì, una cosa dovuta, ci si riuniva, eccetera, eccetera. Anche a volte lo trovavo anche un po' troppo patetico, no? Troppo questo volerci bene a tutti i costi, insomma, essere più buoni, tutta questa roba qui, ero un po' contro. Ultimamente invece non vedo l'ora che arrivi Natale, lo sento già nell'aria, perché finalmente ci siamo riuniti con la mia grande famiglia. Ho ritrovato un cugino che mi ospitava quando a Milano venivo a bussare le porte alle case discografiche, se non ci fosse stato lui e i suoi genitori che mi davano da dormire, io non avrei potuto permettermi di stare qui 5 giorni a settimana. Allora, quando impari a fare una selezione, sì, e cerchi di contornarti il più possibile di persone genuine, ecco, io per il prossimo anno ho coniato questa parola che voglio sentirla spesso a casa mia: genuinità. Come questa parola vale per questo album qua. Può piacere o non piacere, però è genuino, almeno io l'ho scritto con grande genuinità. Allora, una parola che noi facciamo entrare nel Natale di oggi, ma la manteniamo anche per i giorni che seguiranno il Natale. Io accolgo molto volentieri l'invito di Zucchero. Alberto, anche noi faremo una puntata sulla genuinità. Questa casa non è Natale. Noi siamo tornati insieme qua in studio con me e con noi, perché c'è Alberto Pellai, ma soprattutto c'è Zucchero. Stiamo vivendo un Natale pieno di emozioni, di ricordi, un Natale pieno di Zucchero, del suo Chocabec, un album di cui tutti hanno detto un gran bene dal momento stesso in cui è uscito. Direi, Zucchero, un vero e proprio plebiscito. Tu sei, direi, abituato, no, ad essere molto amato sia dal grande pubblico che dalla critica, ma credo che questa volta l'avere costruito un vero e proprio concept album intorno ai ricordi di infanzia racconti uno Zucchero, un modo di essere nuovo, o una parte di te che si è sempre magari letta e vista, ma è proprio un inno alla vita, una dichiarazione, sì, d'amore, di speranza. C'è qualcosa di più di te come uomo? Per me uomo? È stata un'esigenza. Io, come ti dicevo, ho girato per un anno e mezzo, siamo stati in tour, più di 200 concerti in tutto il mondo, compresa l'Australia, eccetera. E veramente ho sentito l'esigenza di leggermi dentro e di dire: vabbè, adesso voglio, quando vado a letto devo insomma, vorrei andarci un po' più sereno, e devo, tra le tante cose, chiaramente pensi alle cose belle, no? Pensi a tuo figlio che cresce bene, pensi alla tua donna, pensi, ma ultimamente, prima di cominciare a scrivere l'album, io mi sentivo caldo e stavo bene, il cuore caldo, quando pensavo a certi suoni, a certi rumori, a certi modi di dire, a certe facce, a certi suoni, e soprattutto il suono della domenica di quando ero ragazzo, di quando ero bambino, diciamo. Ecco, e questo è stato come prendere delle gocce di ansiolitico, non so come dirti, mi calmava. Detto questo, è stato quindi anche un po' per me, come dire, un grande aiuto. Io mi sono messo un po' a nudo qui con questo album qua, come non avevo mai fatto prima. Sono sempre stato così, purtroppo, e poi volevo puntualizzare con questo album il fatto di quello che sono veramente. Perché a volte, quando io sono quello di questo album, ma a volte purtroppo quando vieni provocato con un'ignoranza grezza, oppure vieni strumentalizzato, o vieni così volutamente messo in mezzo, purtroppo, da contadino e da uomo di strada, le reazioni a volte sono, anche da parte mia, un po' irruente. Vedi episodi che sono successi, eccetera, eccetera. Poi c'è il sangue. Esatto, Emiliano. Poi c'è il sangue, Emiliano. Ecco, io non sarei quello lì, io sono questo qua. E questo qua è piaciuto talmente tanto che i più grandi musicisti hanno collaborato con Zucchero per questo CD e hanno scritto anche grandi cose di questo progetto. Proviamo ad ascoltare insieme cosa hanno detto. Sono molto orgoglioso di vedermi coinvolto in questo CD in prima persona. Bono Vox. Una grande voce, un grande cantante, un suono fantastico. Peter Gabriel. Sono stato davvero impressionato dall'ascolto del nuovo album di Zucchero. Lui è un artista che mette davvero tanta passione in ogni cosa che fa. Jeff Beck. Zucchero è un genio, che ha un'unicità alquanto speciale, e tutti dovrebbero avere qualcosa di Zucchero nella propria collezione musicale. Don Was. Per me, lavorare con Zucchero è stata un'esperienza straordinaria. Iggy Pop. Noi faremo l'amore, tre nel cielo e due nel sole. Noi faremo l'amore dentro il mare, dentro il pane. Nella bocca e negli occhi, far l'amore. Quali di questi commenti e di queste voci ti hanno reso più orgoglioso? A parte il commento di Alberto Pellai, che vorremmo inserire, sì, per il tuo CD, che adesso me lo ruberanno come critico musicale, ma quello sì, però di questi... Ma diciamo, Don Was ha esagerato parlando di genio, eccetera, ma lui mi vuole, cioè, essendo il produttore dell'album, mi ha capito più di tutti, ovviamente ha passato più tempo con me e sa quello che sono. Per lui io sono questo qua. Tanto è vero che anche in un'intervista recente su un giornale americano ha detto: se il mondo parlasse di più italiano, Zucchero sarebbe se il mondo parlasse italiano, Zucchero sarebbe considerato come un poeta dei nostri tempi, eccetera. Ma lui mi conosce bene, quindi forse è stato un po' troppo generoso. Quello che mi ha fatto molto piacere è stato Bono, perché abbiamo lavorato in altre occasioni, abbiamo fatto concerti, abbiamo fatto eventi, ha scritto altre parole, ma non l'ho mai visto emozionato come su questa canzone qua. Lui ha fatto un testo, devo dire, fantastico, che si chiama Someone Else's Tears, che è poi la versione di Il suono della domenica, e che sono le lacrime, sta piangendo le lacrime di qualcun altro. Ed è una cosa che deve averlo ferito molto, una cosa sua, molto personale, che ha messo sulla mia musica. Una cosa che ancora probabilmente lo sta facendo soffrire, perché quando gliel'ho portata a Roma, prima del concerto all'Olimpico, lui, quando l'ha sentita finita, mi ha ringraziato dicendo: mi hai fatto un grande regalo, e piangeva. È la prima volta che vedo Bono così emozionato. Per cui, non mi sono attentato di chiedergli qual è il soggetto, probabilmente non lo farò, ma so che è qualcosa che lo fa soffrire. Ho visto gente sola andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Al mio paese vedo fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità. Mio paese, ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, il suono della domenica dov'è? Al mio paese vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità. Paese. Eccolo lì il suono di festa, come ce lo regala Zucchero nel suo nuovo CD Chocabec. Credo che questa canzone è quella più intrisa di un'emozione che entra in riverbero in una giornata di festa come il Natale, cioè l'emozione della nostalgia, il pensare profondamente, intensamente a qualcosa che c'era e non c'è più, però è vivo dentro di noi. E quindi è proprio, direi, come c'è la canzone della festa, Chocabec, che è una canzone piena di gioia. C'è proprio anche la canzone della nostalgia, che però non è un'emozione da lasciare fuori di noi, da non voler vedere. È lì. Ma sai, la nostalgia è la malinconia. Sono sentimenti caldi, cioè voglio dire, non è la depressione, no? Che è un buco nero, freddo. Io la malinconia, a volte uno si lascia andare e pensa, può anche ricordare, ma voglio dire, è bello. Io non provo, non soffro quando in questo momento, per esempio, penso a mio padre o mia madre quando c'erano i Natali che eravamo tutti insieme, ma provo una grande dolcezza, perché con Sting avevamo fatto una canzone che si chiama Why Should I Cry For You? Perché dovrei piangere per te? Che mi hai dato tutto quello che dovevi darmi. Io non piango per te. Io sono molto, hai capito? Non devo piangere per te. Perché infatti tu mi hai dato tutto quello che ho e tutto quello che... quindi, insomma, è più un discorso di tenero e caldo che mi trasmettono quando penso a loro, per esempio. Sì, un ricordo che ha della nostalgia, ma sì, non della tristezza. È un fermarsi sulle cose belle che le persone che ti sono state vicino, che non ci sono più, in ogni famiglia ce ne sono. Oggi molti di noi andranno col pensiero Natale di anni scorsi in cui c'era la mamma, c'era magari il nonno a cui eravamo particolarmente... Mi piace questa lettura di Zucchero e soprattutto stavo riflettendo su come artisti come Zucchero in fondo ci aiutano, diventano dei terapeuti. Chi di noi non trova conforto nella musica e trova magari nei testi di una canzone quel modo nuovo, quello stile per interpretare un'emozione che gli pesa nel cuore. Alberto? Sì, credo che questo sia il valore universale dell'arte, in particolare di alcune musiche che non hanno confini, non hanno lingue, cioè arrivano dappertutto, arrivano a ciascuna persona. Credo in questo disco in particolare. Faccio una piccola interferenza velocissima: dovevano essere davvero persone speciali questo papà e mamma di Zucchero, perché ricordo, abbiamo avuto Irene, tua figlia, con noi, che ha dedicato anche lei alla tua mamma una canzone meravigliosa, bellissima. Una carezza, sì. Nonna Rina. Ma sai, ci vuole poco per essere persone speciali. Erano persone genuine, erano persone dolci, erano Infatti, persone... la nostra parola d'ordine sincere, è genuinità. Questa casa non è un albergo, per farci comodi puoi. Un Natale all'insegna della genuinità partendo dai ricordi. Io penso che questo sia un bell'esercizio che possiamo fare, no? Perché ricordando quello che siamo stati, abbiamo vissuto, le persone che ci hanno accompagnato nella vita, ricordandole con un po' come ne parlavi tu, cioè non voglio piangere per te, voglio ricordare il bello che mi hai dato. E io penso che possiamo farci un bel Natale, Zucchero. Ma io direi di sì, guarda. Consiglio il cappello del prete, tanto se uno non sa che cos'è te lo spiego io. Perché è una cosa, invece di mangiare il solito, vabbè, è buono anche il solito cotechino, lo solito zampone, ma il cappello del prete, che è a forma proprio del cappello del prete, romboide, è stupendo, con la salsa verde e la giardiniera con un po' d'uovo tritato, come faceva appunto mia madre. Ecco, quello, per esempio, quando vedo quella cosa lì, mi viene in mente quei ricordi di cui parlavi te, ma in modo buono, capito? Sì. È talmente buono che me lo mangio. Sì, perché poi sono tutti noi, tu dicevi i suoni, Ma ci sono i profumi, ci sono anche i rumori, ti ricordi, no? Quelli della cucina, che scendevi, sentivi che stavano preparando qualche cosa di buono, e l'odore, il profumo del caffè latte, della cioccolata del mattino si mescolava a quello forse del cappello del prete, del brasato, del ragù. Tutto questo è anche Natale. Ed è incredibile quando devi aiutare un adulto nella stanza dello psicoterapeuta a recuperare il buono di quando era bambino. Devi andare proprio a ripescare quelle immagini lì. A volte ci sono delle persone che non riescono a tirarti fuori niente, allora provi a dirgli: ma lei ripensi a un Natale, che profumi c'erano in casa sua, cosa c'era sulla tavola, e da lì ricostruisci un po' proprio a ritroso momenti, passaggi che sono davvero particolari, che poi rimangono dentro, sono le fotografie, insomma, che quando uno era sempre uno speech in frin. Esatto. No, noi ci nascondevamo sotto la tavola perché insomma c'era il salame tagliato oppure la mortadella e fregavamo sempre la fetta prima degli altri, quindi era lì che mia nonna si mi riprendeva spesso. E sono, vedi, anche questo è un altro ricordo caldo per me, molto tenero. Adesso non vorrei essere troppo romanticone, ma io lo sai che sono sempre tra il sacro e il profano, tra il diavolo e l'acqua santa. Adesso voi state tirando fuori di me la parte più l'acqua santa, ecco. Sì, però io la devo equilibrare sempre, perché se no mi sembra... Scusa, così vieni un'altra puntata e facciamo tutto diavolo, okay. Così noi ti vediamo due volte. Ok. Mannaggia questo speech in frame. Flying angel in the sky, cosa vedi, cosa sai? Flying angel in the sky. Vedo un pino tra i rosai, nel tramonto bello assai, e un bambino che ha gli occhi suoi. Ancora non ti ho persa, stai soltanto dormendo nella mia testa, oh mia. Flying angel in the sky, non ci credi, capirai. Vedo i giorni, gli anni tuoi, visi persi nel via vai. Flying angel in the sky. Passa un treno che va via, di un colore nostalgia. Flying angel in the sky. Senti, Zucchero, per così equilibrare, che cosa è rimasto? Perché sennò no, sembri troppo buono. Troppo buono. Che cosa è rimasto di quel speech in frin? Ma insomma, un po' tutto. No, nel mio profondo c'è sempre questo bambino, tanto è vero che chiudo l'album con God Bless the Child, che vuol dire che Dio benedica il bambino, che è dentro di me. Io spero che lo benedica ancora per un bel po'. Io sono dispettoso per natura, ma mi piace provocare, mi piace anche indispettire per vedere le reazioni degli altri, ma sempre per riderci sopra, capisci? Per non prendere la vita troppo sul serio, per non prendere le cose troppo sul serio. Guarda, proprio questa canzone Speech in Free Boy è la mia seconda preferita, e ragionavo sul fatto che poi alla fine la vita è proprio un cerchio, nel senso che Zucchero, tu te lo immagini, un artista che è conosciuto in tutto il mondo, ha collaborato con tutti i musicisti più famosi nel mondo. È anche generoso che passa un Natale con Alberto, esatto. E Nicoletta, che quindi uno sgabellino in paradiso, quindi, se lo guadagna. Il livello, il grande, no? Il tutto. Dopodiché ritorni all'essenziale, cioè il senso, il significato sta nel piccolissimo, in questo Da New York Zucchero va a presentare il suo CD a Brescello. Ti potrebbe raccontare le storie degli artisti più incredibili. Racconta invece storie dove ricorda la nonna, ricorda il paese, ricorda la vita di provincia. Secondo me c'è un messaggio grandissimo, nel senso che alla fine noi ci affanniamo per rincorrere una vita che probabilmente neanche ci meritiamo, e spesso ci dimentichiamo di vedere la vita che abbiamo a disposizione, che potrebbe darci tutto e che probabilmente riscopriamo solo nell'ultima, in passaggi dove ci sembra di aver perso tutto, improvvisamente ritroviamo tutto. Le cose che contano, insomma. Sì, però sono le cose che contano, solo quelle, insomma, il resto sono specchi per le allodole. Senti Zucchero, in un programma dedicato alle relazioni tra genitori e figli, siamo quasi in chiusura, come vorrei che tu ci raccontassi un po' di Zucchero come padre. Hai insegnato, come hai fatto a insegnare a Irene l'essenziale, le cose che contano? Ma sai, che padre sei? Sono diventato padre giovanissimo, a 23 anni, di Alice. Poi dopo è venuta a distanza di 4 anni Irene, ma lì ero in corsa, cioè non, studiavo all'università, non avevo soldi per mantenermi all'università, non avevo una casa, non avevo uno stralcio di un contratto discografico. Avevi però il cugino di Milano. Sì, grazie a Dio, che mi ospitava. Andavo a suonare il sabato e la domenica per accumulare qualche soldo, insomma, poi ho dovuto prendere la decisione di mollare l'università per fare il musicista, quindi lì ero in tiro, hai capito? E in quel momento lì ero molto preoccupato anche per come tirare sulla, insomma, per dare una sistemazione alla famiglia, eccetera. Per cui l'ho vissute di corsa e in ansia. E quindi mi limitavo a fare il padre canonico, cioè del tipo queste cose non si fanno, questo è sbagliato, questo non dovresti fare così, non, per favore quando mangiamo tutti insieme non guardare la televisione troppo, quelle cose lì devi studiare, eccetera, eccetera. Poi dopo c'è stato un grande contatto proprio di cuore e di testa, no? La chimica, cioè tra padre e figlia, cioè, adesso è stupendo il nostro rapporto, per esempio, è proprio pieno, è intenso, è profondo, io so tutto di loro, mi raccontano tutto, insomma c'è questo. Mentre invece è stato più fortunato in questo senso Blu, che ha 13 anni, perché lì insomma l'ho avuto che ormai ero sistemato, tranquillo, non avevo problemi di natura economica, di dargli una sistemazione, quindi l'ho vissuto con molto più da vicino, capito? Sì. Me lo portavo con me in tournée, ero organizzato perché potevo permettermi una babysitter, di averlo sempre con me, e quindi insomma lui è cresciuto con me. Alberto, noi vogliamo chiudere con un brano, God Bless the Child, che è il brano che abbiamo scelto di far ascoltare per ultimo in questa nostra puntata natalizia, perché è un'invocazione a Dio con lo stile del blues, perché si prende a cura del bambino che c'è dentro Zucchero, ma dentro ciascuno di noi. Looking for someone God bless the child. Where's he gone and run to? Where'd he hide? Maybe there's no words, no words that I know. Soul is like an ocean, but the flesh grows cold. I see a shadow in the mirror. I feel the spirit in. E allora è tempo di augurarci buon Natale. Buon Natale a tutti i bambini, ai bambini che albergano, vivono, e dobbiamo proteggere quelli che vivono in ciascuno di noi. Zucchero. I bambini sono una cosa fantastica. E infatti tutte le volte che mi chiamano per partecipare a qualche evento di charity. Se ci sono i bambini, se lo fanno per i bambini, io vado sempre. È il caso di dire God bless the children. Grazie, buon Natale. Prego. A Zucchero, a tutti voi. Alberto. Io volo dai miei 4 bambini perché è ora di far Natale con loro. Buon Natale a tutti da Nicoletta Carbone, da Alberto Pellai e da Zucchero. Ciao.